Il Signore disse a Mosè: «Vedi, faccio di te un Dio per il Faraone, e Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò, e Aronne, tuo fratello, parlerà al Faraone perché lascia andare via i figli di Israele dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi in terra d'Egitto. Il Faraone non vi ascolterà e porterò la mia mano contro l'Egitto e farò uscire le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, dalla terra d'Egitto con grandi castighi. L'Egitto saprà allora che io sono il Signore quando stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire i figli di Israele di mezzo a loro». Mosè ed Aronne fecero come aveva ordinato loro il Signore. Così fecero. Quando parlarono al Faraone, Mosè aveva 80 anni e Aronne 83. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Se il Faraone vi parla dicendo: fate un prodigio, dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al Faraone, diventerà un drago». Mosè ed Aronne vennero dal Faraone e fecero come aveva ordinato il Signore. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servi e diventò un drago. Ma anche il Faraone chiamò sapienti e incantatori, ed anche i maghi d'Egitto, coi loro sortilegi, fecero così. Ognuno gettò il proprio bastone, che diventò drago, ma il bastone di Aronne ingoiò i loro bastoni. Tuttavia il cuore del Faraone restò duro e non li ascoltò, come aveva detto il Signore. Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del Faraone si è appesantito rifiutando di lasciare andare il popolo. Va dal Faraone di mattina, proprio quando esce verso l'acqua. Mettiti in modo da incontrarlo ai margini del fiume e terrai in mano il bastone che si è cambiato in serpente. Gli dirai: il Signore, Dio degli Ebrei, mi ha mandato da te dicendo: manda via il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, finora tu non hai ascoltato. Così dice il Signore: con questo saprai che io sono il Signore. Ecco, con il bastone che ho in mano io colpirò l'acqua che è nel fiume e si cambierà in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno. Il fiume puzzerà e l'Egitto non potrà più bere l'acqua del fiume». Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne: prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui suoi fiumi, sui suoi canali, sui suoi stagni e su tutti i loro depositi d'acqua, e diventerà sangue. Ci sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, nei recipienti di legno e di pietra». Così fecero Mosè ed Aronne, come aveva ordinato il Signore. Alzò il suo bastone e colpì l'acqua che era nel fiume davanti agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi servi. E tutta l'acqua che era nel fiume si cambiò in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono, il fiume puzzò, e gli egiziani non poterono berne le acque. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto. Lo stesso fecero i maghi d'Egitto con i loro sortilegi, e il cuore del Faraone si indurì e non li ascoltò, come aveva detto il Signore. Il Faraone si voltò e andò alla sua casa, e non fece caso neppure a ciò. Tutti gli egiziani scavarono nei dintorni del fiume per avere acqua potabile, perché non potevano bere dell'acqua del fiume. 7 giorni trascorsero da quando il Signore aveva colpito il fiume. Il Signore disse a Mosè: «Entra dal Faraone e digli: così ha detto il Signore, manda via il mio popolo perché mi serva, e se tu rifiuti di mandarlo via, ecco, io colpisco tutti i tuoi confini con delle rane. Il fiume pullulerà di rane, saliranno e verranno nella tua casa, nella camera dove riposi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi servi e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi saliranno le rane.